Di iniziare con leggere un telegramma inviato dal Presidente della Regione della Provincia, il Dottor Angeli, che è lieto di esprimere al convegno organizzato sull'illuminismo e società segrete la più cordiale adesione della Giunta Provinciale e mia personale nell'impossibilità di essere presente a causa degli impegni legati al governo della provincia autonoma. Sono lieto di porgere agli illustri relatori e a tutti i presenti il più cordiale saluto. Credo che non c'è bisogno di una traduzione, no? Ecco, grazie molte. E per parte mia, nel porgere il saluto dell'Istituto Storico Italo-Germanico a tutti gli illustri relatori qui convenuti, a tutti i partecipanti a questo convegno, anche a nome del segretario generale dell'Istituto, il professor Paolo Prodi, oggi assente per impegni accademici a Roma, ma che domani sarà qui con noi, porgere un saluto cordiale e collegiale, ma corre subito l'obbligo di ringraziare in primis il professor Helmut Reinalter dell'Università di Innsbruck, cui si deve l'iniziativa del convegno stesso e la massima parte dell'organizzazione scientifica. Ricordiamo con piacere il convegno su temi analoghi tenutosi, sempre su iniziativa del professor Reinalter e del suo centro di studi sui movimenti giacobini e democratici ad Innsbruck nell'ottobre dello scorso anno, convegno al quale parteciparono con proprie comunicazioni l'illustre collega professor Carlo Frankovic dell'Università di Firenze, che parlerà domani, e anche chi vi parla. Adesso il professor Reinalter mi comunicava che fra poco saranno pronti anche gli atti del convegno di Innsbruck, un convegno grosso di una settimana con numerosi relatori e numerose comunicazioni. Questo nostro incontro di oggi e di domani, con una tematica più allargata rispetto a quello di Innsbruck, può considerarsi nella prosecuzione. L'Istituto Storico Italo-Germanico è lieto di esserne sede, corrispondendo ciò per materia e per luogo ai suoi fini istituzionali. La città di Trento, infatti, è stata un piccolo e modesto centro di confluenza, piccolo e modesto, ma pur sempre centro, di sutura tra il mondo politico-culturale di lingua tedesca e il mondo politico-culturale di lingua italiana. E se ciò si è verificato costantemente nella sua storia, si riscontra sicuramente anche nel periodo dell'illuminismo, della proliferazione delle logge massoniche, del giacobinismo. I primi francomuratori trentini, scrive Antonio Ziegler in un suo lavoro, credo noto, sulla massoneria trentina, che ci convince di più di quello sul giacobinismo trentino, perché è troppo indulgente a trovarvi troppe aspirazioni nazionali, vanno cercati, scrive lo Ziegler, fuori del paese, nelle logge di Vienna, di Innsbruck e della Germania. Negli stessi anni in cui ciò avveniva, erano attivate relazioni massoniche anche con le logge italiane del Veneto e della Lombardia. Durante il periodo dal 10 al 13, quando il Trentino e la parte meridionale dell'attuale provincia di Bolzano apparteneva con la denominazione di Dipartimento dell'Alto Adige al Napoleonico Regno d'Italia, l'asse delle relazioni dei fratelli trentini si spostò decisamente verso le logge dell'Italia settentrionale. La massoneria era divenuta il canale ottimale e più percorribile per accedere ai pubblici uffici di rilievo politico e di supporto del governo stesso, quasi come una struttura ufficializzata di reclutamento di alti funzionari. Si può quasi parlare di una prima e di una seconda massoneria nel Trentino, e non solo per l'asse direzionale dei suoi rapporti con logge del mondo culturale tedesco o con logge del mondo culturale italiano, ma anche per la prevalenza di uomini di studio o di burocrazia. Basti ricordare che della prima massoneria, quella che giunge all'incirca sino alla fine del secolo XVIII, fecero parte cultori di lettere, di scienze, di giurisprudenza, di primo piano nella cultura europea e che operarono tanto nel mondo austro-tedesco quanto in quello italiano, come per nominarne sono tre: il matematico Gregorio Fontana dell'Università di Pavia, il giurista Carlo Antonio Martini all'Università di Vienna e il più noto ancora Carlo Antonio Pilati, ai quali si potrebbe affiancare, tenuto conto della sua presenza e della sua attività in Trento, anche se trentino non era, Gian Domenico Romagnosi. Quella che potremmo indicare come la seconda massoneria del Trentino, del periodo bavaro-napoleonico, è fatta di prefetti, di sottoprefetti o cariche analoghe, con diverse denominazioni, di magistrati di vari livelli, di commissari, di amministratori comunali, di intendenti scolastici, di ufficiali, funzionari e impiegati. Una uguale apertura verso il mondo politico-culturale di lingua tedesca e quello di lingua italiana troviamo anche nel giacobinismo trentino, che ebbe proporzioni modeste e pur non trascurabili, ma di esso parlerà nei termini in cui va ricondotto domani la professoressa Maria Garbari. Noi intendiamo sottolineare l'apertura del giacobinismo trentino in due mondi culturali, austro-tedesco ed italiano, non affermare che esso si fosse coscientemente assunto il ruolo di sutura dei due mondi. Inseriti in quello d'Oltralpe per ragioni di frequenza di istituti di istruzione superiore, gli studenti trentini che nel 93 promossero ad Innsbruck la costituzione del club giacobino sono di madrelingua e di nazionalità italiana, ma coerentemente con i principi del cosmopolitismo illuministico e nella quasi mistica aspirazione ad un mondo nuovo, non avvertono la nazionalità come un fattore conflittuale tra gli uomini. Del club fanno parte come affiliati anche membri che non solo sono di nazionalità tedesca, ma che non comprendono neppure la lingua italiana, e le difficoltà conseguenti restano solo sul piano pratico della comunicazione linguistica, non su quello ideologico. Il club trentino di Innsbruck, per precedenti di uno dei suoi promotori e per l'attenzione di altri, è rivolto anche alla situazione e ai problemi dell'area italiana e alle relazioni con centri di innovazione culturale e politica della penisola, verso i quali più specificamente si indirizzano gli ambienti giacobini roveretani posti in quello che allora era chiamato il circolo ai confini d'Italia. Quanto al contenuto dottrinale del giacobinismo trentino, e certamente nella sua manifestazione innsbruckese, sembra di poter dire quel che Franco Valsecchi disse del periodo dell'assolutismo illuminato in Austria e Lombardia, che vive cioè un urto di generazioni, non di classi, una rivolta morale e filosofica, non una rivolta sociale. Sotto questo aspetto il giacobinismo trentino, se si prescinde da occasionali e singole espressioni di propositi rivoluzionari di matrice economica e di classi meno abbienti, resta sul terreno delle riforme istituzionali, come lotta all'assolutismo, sul terreno della postulazione dell'uguaglianza giuridica degli uomini e dei ceti, della libertà di pensiero e di confessioni religiose. C'è certamente, almeno a me appare così, una diversa tensione sociale tra il giacobinismo, che chiamerò trentino-tirolese, e quello viennese. Almeno quella differenza si nota, se non sul piano delle azioni, su quello della elaborazione di programmi e di scritti che riguardano gli ambienti del giacobinismo viennese, una raccolta significativa dei quali è stata pubblicata una decina d'anni fa da Alfred Körner. Mi interrompo per dire che non mi riferirò ad altra bibliografia, data la presenza di Reinalter, di Weiss, di Frankovic per l'Italia, e saranno loro eventualmente però a entrare in argomento. C'è una vera e propria elaborazione di proposte di riforme costituzionali che, senza intaccare l'integrità dello Stato degli Asburgo, giungono alla postulazione di un organo rappresentativo popolare delle singole province, nel piano di Rieder per esempio, tra le quali vengono elencate anche il Tirolo, senza distinzioni nazionali delle sue due parti, il Friuli, il litorale adriatico e, così è scritto, i nostri stati in Italia, un Unterstaaten in Italia. Ma accanto a questi temi testi politico-giuridici si affiancano altri convivaci fermenti di rivolta sociale indirizzati alla povera gente comune e ai contadini. Tra il club erzegovino di Innsbruck e quello di Vienna, molto più maturo di pensieri e di propositi, non ci fu alcuna relazione organizzativa, certamente no, ma stando a quello che scrive il RAP, neppure di scambio di idee. E neppure l'anonimo che faceva parte del club di Innsbruck, che ne lasciò una memoria diretta sull'Europäisches Magazin di Norimberga del 1815, accenna a rapporti di sorta fra i due centri di congiura e clandestinità. Il club di Innsbruck fu dunque il prodotto di importazione dall'esterno dell'Austria e precisamente dai paesi italiani, in massima parte, come si è detto, dal Trentino, ciò che è confermato anche dal fatto che degli arrestati, quando la congiura venne scoperta, i non austriaci si contavano sulle dita di una mano. Eppure, fra i due centri giacobini dell'Austria, se si prescende dai maggiori accenti sociali che si alzano da quello di Vienna, c'è una consonanza di posizioni ideologiche, logica consonanza se si pone attenzione agli anni precisi in cui sorgono e si manifestano, e al fatto determinante che l'Austria non fu occupata come altre regioni vicine della Germania e dell'Italia dalle armate francesi. Già Jacques Gauchot, nella sua nota opera, ha distinto bene tra l'espansione del moto rivoluzionario francese attraverso la diffusione culturale e quella derivante dall'occupazione militare. Una diffusione, diremo noi, per circolazione di idee e conoscenza degli avvenimenti, e una per espansionismo militare, che trascinava con sé dottrine e sistemi politici degli occupanti. Da questa seconda l'Austria è stata immune, e comunque i tentativi di dare alle nuove idee che vi circolavano espressioni politiche e organizzative di stampo giacobino furono stroncati tra l'ultimo giorno di luglio e il 7 agosto 1794 a Vienna e ad Innsbruck, quando anche la seconda fase del giacobinismo francese si chiudeva nella involuzione termidoriana, cui seguiva nel settembre la soppressione dei club giacobini anche in Francia. Per il giacobinismo austriaco nel suo complesso abbiamo l'impressione, per quello trentino-tirolese la certezza, che non riuscì a compiere neppure ideologicamente il cammino percorso dal giacobinismo francese. Questo attraversò due fasi, la prima del Club Breton, dal maggio dell'89 alla Società degli Amici della Costituzione, con un carattere prevalentemente monarchico-costituzionale fino alla metà del 90, riservato ai ceti nobiliari, borghesi e intellettuali e con esclusione dei ceti sociali minori fino al 92. La seconda fase, dal settembre del 92, quando assunse il nome di Società dei Giacobini Amici della Libertà e dell'Uguaglianza, e sotto l'influsso di Marat e Robespierre accentuò al massimo concezioni e programmi radicali, integralisti, ugualitari nelle istituzioni repubblicane, segnando così lo slittamento dal giacobinismo al sansculottismo. Degli avvenimenti di questa seconda fase il giacobinismo trentino-tirolese ebbe conoscenza, ma non ne assorbì le coordinate ideologiche, fatta salva qualche imprecisa aspirazione repubblicana e l'ipotesi di introdurre la religione naturale, ipotesi sulla quale prevaleva tuttavia quella di conservare il cristianesimo purificato dalle sue sovrastrutture storiche. È al giacobinismo d'élite che si ispira il circolo di Innsbruck e ad una alta dottrina riassumibile nel trinomio di eguaglianza, libertà e amicizia e nel postulato dei diritti dell'uomo. V'è da domandarsi che cosa fosse il giacobinismo degli studenti trentini di Innsbruck e se anche ad essi, fautori sì del nuovo pensiero politico venuto di Francia e travolti dall'entusiasmo per la rivoluzione francese, ma per nulla approdati a propositi di sansculottismo, non sia accaduto di vedersi attribuire l'immagine e il nome del partito più temuto e più combattuto dai ceti conservatori, anche da quelli moderati e naturalmente dall'apparato dello Stato monarchico ed assoluto. Quale esatto significato vada connesso coi termini di giacobino e giacobinismo è questione ancora aperta. Non tutti coloro che si dicevano giacobini, e che erano considerati tali, scriveva il Candeloro, riferendosi all'Italia, ma il discorso è valido generalmente, avevano allora idee molto chiare sui programmi concreti che si proponevano di realizzare con le loro congiure e con le loro cospirazioni. Un ulteriore esame critico anche dell'uso dei termini nella storiografia sarebbe opportuno. E il vicino bicentenario dell'89 francese, con i suoi studi che esso apporterà, potrebbe recare un contributo significante in questo esame radicale. Diciamo ulteriore, poiché sulla questione si sono trattenuti, come ben noto, molti storici italiani. Delio Cantimori ritiene appropriato il termine di Giacobino solo a coloro che si ispirarono al momento eroico della Rivoluzione francese, anche se aggiunge che non è da restringersi solo agli estremisti, ma vi vanno compresi anche i moderati, purché nelle idee e nella prassi dei Jacobins ponessero come interdipendenti la rivoluzione morale, quella religiosa e quella sociale, per la quale ultima si poneva di rigore il rapporto con le masse, con quelle contadine in specie, che si attuò nel giacobinismo francese, che mancò al giacobinismo italiano, come mancò poi a tutto il Risorgimento, e che nel preludio di espressioni del giacobinismo austriaco subito smorzate ebbe qualche guizzo negli appelli ai contadini e all'uomo comune, con un pathos che ricorda in parte quello della Bauernkrieg del secolo XVI. Altri, come per ricordarne due, ed ho finito, il Saita e il De Felice, esaltano quale momento eroico quello robespierista, o indicano come componenti ideologiche dell'autentico giacobinismo il democratismo assunto quasi a fede mistica, l'egualitarismo, l'anticristianesimo, il repubblicanesimo, il cosmopolitismo e la palingenesi rivoluzionaria. Estendere e in che misura questi criteri identificativi dell'autentico giacobinismo alle sue espressioni tedesche, austriache e italiane è problematico e potrebbe essere anche oggetto, sicuramente, che emerge dai lavori di questo nostro convegno. Poiché sotto il denominatore comune della volontà di distruggere il vecchio mondo per costruirne uno nuovo, i vari gruppi regionali e i vari centri culturali si differenziano e spesso notevolmente quanto a contenuto programmatico e a metodo di azione. Ma c'è una continuità ideologica nelle differenziazioni regionali e temporali, in un moto unitario che va dall'illuminismo alla massoneria, al giacobinismo, al democratismo, oscillante questo moto tra il riformismo e il rivoluzionarismo più acceso. Lo avvertono con chiarezza i ceti privilegiati, aristocrazia e clero, che quando crederanno la passata tempesta rivoluzionaria e quella napoleonica destabilizzante l'assetto politico-territoriale europeo, torneranno ad affiancarsi nel tentativo di una restaurazione di breve durata. Quella continuità ideologica è conosciuta non solo ai vertici del potere, ma anche nelle classi popolari, che se per motivi sociali ed economici si sentono attratte e coinvolte nel moto rivoluzionario, per altri motivi di rischiosità all'ordine tradizionale, di fedeltà al clero e ai principi religiosi e confessionali, sono indotte ad opporsi ad esso. La letteratura minore del giacobinismo non dovrebbe essere letta, a nostro avviso, se non contestualmente con quella dell'antigiacobinismo, per non isolare due aspetti della stessa realtà storica nello stesso momento. Il coinvolgimento delle masse popolari in senso eversore del vecchio mondo e in senso rivoluzionario prestò la forza d'urto nella fase distruttiva del vecchio ordine delle strutture dello Stato in Francia, episodicamente anche in altri paesi, ma finì per essere riassorbito nell'alveo della mentalità comunemente tramandata da secoli, immatura ancora ad apprezzare l'ordine nella libertà di pensiero e di azione politica in luogo dell'ordine derivante dal privilegio cettuale. Tema diffuso in tutta la letteratura antigiacobina, che preannuncia lo spirito della restaurazione, è quello della continuità ideologica dell'illuminismo agli eventi rivoluzionari, dell'antireligiosità del moto culturale e politico e del pericolo catastrofico di un salto nel buio, nel disordine. Così presentava i problemi morali e politici del tempo, vale la pena di ricordarlo, anche l'oratore che il 18 maggio 1794 nel Duomo di Bressanone condannava con toni accesi, cito, la setta che porta diversi nomi di giacobini, di framassoni, di illuminati, di liberi pensatori, di fratelli naturisti, di riformatori, di belli spiriti e filosofi, invocando, cito ancora, che si puniscano i loro club, le loro logge segrete, che si disperdano i loro libri e manoscritti, sorgenti di disordine e ribellione, nei quali essi instigano il reggente contro il popolo e il popolo contro i suoi capi. Tra le nuove idee circolanti in Europa sulla spinta del pensiero e della rivoluzione francese ve n'era una, l'ha osservato anche il Gossot, che non era stata espressa né nella dichiarazione dei diritti dell'89 né in quella del 93 e che tuttavia fece la più grande impressione sui patrioti: l'idea dell'unità e indivisibilità della nazione. Un'idea emergente che congiuntamente a quella della Costituzione, dell'uguaglianza giuridica dei ceti, formerà la base delle aspirazioni politiche e civili nell'Europa della Restaurazione. Non spetta a noi rendere una relazione né complessiva né singolarmente su uno o sull'altro tema, soltanto introdurre il discorso, e penso che come introduzione al convegno possa essere stato utile risollevare alcune questioni non certo ignote alla storiografia o suggerirne, accentuandone anche altre, in una cornice che può raccogliere quel che è stato comune nei paesi presi in esame e che tuttavia lascia spazio alle differenziazioni di luogo e di tempo. Sulla ricchissima bibliografia di lingua tedesca potranno di volta in volta dare informazioni e indicazioni i colleghi austriaci e tedeschi nel corso delle loro relazioni o, se richiesti, nel corso della discussione. Su quella italiana pensiamo di avere anche qui in istituto un repertorio esauriente nella nota e ampia opera La bibliografia del Risorgimento in onore del decano degli storici italiani, il professor Alberto Maria Ghisalberti. Non è aggiornatissima, risale a 10 anni fa, ma è ricca e completa per quel che possono essere complete le grandi rassegne bibliografiche. Forse una parola illustrativa è opportuna aggiungere. Pur essendo una vexata questio quella di individuare il termine a quo del Risorgimento italiano, è invalso ormai il criterio di assorbire in esso, cautelativamente indicandoli come pre-risorgimento, anche gli ultimi decenni del secolo XVIII, e perciò la bibliografia del periodo che è oggetto di questo convegno è compresa nella storiografia italiana del e sul Risorgimento. Particolarmente numerose sono le opere sulle repubbliche giacobine, con un tipo di storiografia regionale che trova riscontro, ci pare, in un'analoga articolazione della storiografia tedesca sul giacobinismo. Infine, un'informazione. L'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano dedicherà il suo congresso del 1988, di qui a 2 anni, al bicentenario della Rivoluzione Francese. Ma anche altri istituti storici italiani attendono sin d'ora a programmi di ricerca in argomento. Per quanto ci consta, l'Istituto di Storia del Risorgimento pubblicherà per l'88 anche 2 volumi di raccolta della pubblicistica minore del giacobinismo e dell'antigiacobinismo. Vi domando scusa se ho rubato un po' di tempo o fatto un po' di tempo. Desiderate un riassunto in tedesco? Also ich hoffe, die wichtigsten Punkte zusammenzufassen. Die Stadt Trient war immer ein Zentrum, ein zwar kleines, aber ein Zentrum des Ineinandergreifens der politisch-kulturellen Welten in deutscher und in italienischer Sprache, durch Deutsch, Österreich natürlich zuständig ist. Die ersten Trentiner Freimaurer sind nicht so sehr im Lande selbst zu suchen, sondern außerhalb des Landes, in den Freimaurerlogen von Wien, von Innsbruck und von Deutschland. Immerhin in den gleichen Jahren aber, in denen das stattfindet, sind auch Verbindungen zu den Freimaurerlogen in Veneto und in der Lombardei festzustellen. Ich bin dabei, das Wichtigste herauszusuchen, was ich überstrichen habe. Die Freimaurerei war nach wie vor für die meisten, die später eine Staatskarriere anstreben, nach wie vor das rechte Sprungbrett für eine Laufbahn. Man kann sogar regelrecht von einer ersten und von einer zweiten Freimaurerei im Trentino sprechen. Und das nicht nur wegen ihres jeweiligen Bezugspunktes zur österreichisch-deutschen und zur italienischen Welt, sondern auch also wenn ich das richtig verstanden habe, war die erste vor allen Dingen noch ein Sprungbrett zur Laufbahn von Staatsangestellten und später erst wurde sie allmählich revolutionär. Habe ich das richtig studiert? Ja. Die verschiedenen, wie die tirolische, trentinische, tirolische, jakobinische, ja, ich versuche das gerade herauszuarbeiten. Die Öffnung des trentinischen Jakobinismus auf gegenüber den beiden Welten, also der österreichisch-deutschen und der italienischen Welt, muss unterstrichen werden, auch wenn es das nicht heißt, dass sie eine integrierende Wirkung gehabt hätten, aber auf jeden Fall ist sie festzustellen. In 1793 gründeten in Innsbruck jakobinische Studenten einen jakobinischen Club. Sie waren italienischer Muttersprache natürlich, verstanden sich aber vollständig in der Tradition der Aufklärung, mit also durchaus Begriffen von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Sie empfanden sich also keineswegs als Deutsche, aber keineswegs auch nur als Italiener. Die Lehrmeinung des trentinischen Jakobinismus kann zusammengefasst werden, fast als ein Urto die Generationen und die Klasse, also ein Generationskonflikt, nicht ein Klassenkonflikt, eine moralische und philosophische Auflehnung, nicht eine soziale Revolte. Unter diesem Aspekt ist der trentinische Jakobinismus nach wie vor auf dem Boden der institutionellen Reformen als Kampf gegen den Absolutismus, als Kampf natürlich für die juristische Gleichheit der Menschen und der Schichten, der Freiheit, der Gedankenfreiheit und der religiösen Freiheit. Es gibt ja jüdische Schichten. Es gibt zweifelsohne eine völlig andere Auffassung, auch eine andere Gegenwart der sozialen Spannungen zwischen, also es ist eine, sie driften dabei auseinander, es gibt eine Auseinandersetzung zwischen dem trentinisch-tirolesischen Jakobinismus, also zwischen dem trentinisch-tirolerischen Jakobinismus und dem wienerischen, was die soziale Spannung anbelangt. Also, wenn ich das richtig verstanden hatte, der Wiener ist ein solcher Sozialrevolutionär und der Tirolerische etwas weniger. Eppure tra i dirigenti c'è una cosa. Resonanz hat. Mal ideologisch der Entwicklung des französischen Jakobinismus standhalten konnte oder mit ihm in Gleichschritt ging, dass er auch die ideologischen Gedankengänge nicht vollzog. So zum Beispiel ist, das sind zwei Phasen zu unterscheiden. Die erste in Clapeton im Mai des Jahres 89 mit der Gründung einer Société de la Ministre de la Constitution mit einem regelrechtlich monarchisch-konstitutionellen Charakter bis zur Mitte der 90er Jahre, die hauptsächlich für die Schichten der Adligen, des Großbürgertums und der Intellektuellen zugänglich war. Und eine zweite Phase im September 92, als es den Namen Société de Jacobin annahm, Amis de la Liberté et de l'Égalité, und unter dem Einfluss von Marat und Robespierre die radikalen Programme durchaus einbezog und damit fast den Jakobinismus in den Sanskrotismus hineinglitt. Von diesen Bewegungen hatte der trentinische Jakobinismus durchaus Kenntnis, aber er folgte diesen ideologischen Entwicklungen überhaupt nicht, sondern versuchte auf dem Boden einer republikanischen Erfahrung zu bleiben, auch für die Einführung einer neuen Naturreligion ohne weiteres, aber immer auf der Basis eines von seinen historischen Auswüchsen gefolterten Christentums. Es ist durchaus ein Elite-Jakobinismus, der den Zirkel von Innsbruck beeinflusst, also ein Elite, auch ein ideeller Elite-Jakobinismus, immer auf dem Grund von Freiheit, Gleichheit und Freundschaft vor allen Dingen und natürlich auf den eben formulierten Menschenrechten. Und jetzt an Seite 10. Ja. An Seite 10 ist es. Kann man das alles sehen? Ja. Hier. Unter den neuen Ideen, die in Europa im Fahrwasser der Französischen Revolution sich ausbildete, war eine, wie Gottschalk anmerkt, die weder in der Erklärung der Rechte des Jahres 89 noch in jener von 93 enthalten ist, die aber von unglaublicher Auswirkung war, gerade auf die Patrioten. Das war die Idee der Einheit und Unteilbarkeit der Nation. Eine Idee, emergente, die Idee der Konstitution, der Verfassung eigentlich weiterentwickelt, die juristische Gleichstellung der Schichten und der Bürger auf eine neue Basis hebt und damit die Grundlage bildet für die politischen Bewegungen, für die politischen zivilen Bewegungen des Europa der Restauration. Hier ist die Bibliografie. Ja. Über die reichhaltige Bibliografie in deutscher Sprache können die österreichischen und deutschen Kollegen Informationen geben. Und sie werden das auch im Laufe ihrer Beiträge tun oder auch außerhalb ihrer Beiträge. Was sie in italienischer Sprache anbelangt, so ist hier im Institut eine durchaus repräsentable Auswahl vorhanden. Zum Beispiel in der Bibliografie des Risorgimento. Sie ist nicht gerade neuesten Datums. Sie ist also 10 Jahre alt, gerade die letzten Titel nicht auf. Sie ist aber als vollständig zu betrachten, wenn man sieht, es ist eine allgemeine Bibliografie. Eine Anmerkung noch am Ende, die ist, glaube ich, auch wichtig, was ich verstanden habe. Und zwar geht es um das alte Problem, wann der Beginn des Risorgimento angesetzt werden kann. Es ist nach wie vor, es ist jetzt allmählich setzt sich die Lehrmeinung durch, dass man in das Risorgimento, die Bewegung des Risorgimento auch die letzten Jahrzehnte des 18. Jahrhunderts einschließen kann. Die Bibliografie dieser Periode ist also auch Thema, Diskussionsthema dieses Kongresses und ist enthalten in der allgemeinen italienischen Historiografie über das Risorgimento. Sehr zahlreich sind die Werke über die jakobinischen Republiken mit einer mehr regional definierten Historiografie. Was sich übrigens niederschlägt in einer analogen Entwicklung der deutschsprachigen Historiografie über den Jakobinismus. Am Ende schließlich noch eine Information. Das Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano wird seinen Kongress 1988 dem 200-jährigen Jubiläum der Französischen Revolution widmen. Auch andere historische Institute, auch andere geschichtliche Institute, andere italienische Institute haben bereits jetzt Forschungsprogramme über diesen Themenkreis ausgearbeitet. L'Istituto di Storia del Risorgimento, so viel Professor Cossini weiß, wird 1988 auch ein zweibändiges Werk über die kleineren Schriften des Jakobinismus. La minore, la minore, ja. La bibliografia minore, la risorgimento. Vielen Dank.